elementari a me non me l'hanno spiegato, che il posto dove sono nato mi avrebbe piegato. Sarei stato un po' più concentrato, piuttosto che fare sega per fumare le canne al prato. E qua è buio pesto, in più fa buio presto. Dicono è uguale ma a me non mi pare più lo stesso. Faranno la sentenza, però dov'è il processo? Dove posso dire secondo me cos'è successo? Non è giusto, mi rispondi il mondo è malato, per quel poco che ho avuto gusto, questo qua è un conto salato. E comunque il mio sudore io non gliel'ho mai regalato. E non comincio adesso che dal resto mi so già separato. Prendo gli appunti sopra i fogli, lo so che tu mi imbrogli, mi chiedi di restare asciutto seduto sugli scogli. Non c'entra quali togli, se realizzare i sogni è come trovare un prato di quadrifogli. Mi vogliono combattere, ma non lo sanno fa. Io sento solo chiacchiere, come un anno fa. Questo è il mio carattere, e non lo cambio ormai. Mi dicono battene, frate, ma quando mai? È quando prendi atto del fatto che non c'è scopo, che di vincere non c'è modo. Dovresti essere il primo a rispondere con il fuoco, ma qui resta tutto fermo come una foto. E vivo intrappolato, un altro giorno col cappio intorno al collo. La paranoia sono abbonato, c'è chi l'ha notato, che ci hanno abbandonato. E sono stanco come chi lotta da quando è nato. Ma le loro esche io non c'ho mica boccato, in quella finzione dove l'aria sa di bicarbonato. E a resistere quasi ogni amico ha mollato. Qui c'è la guerra ma io non sono mica un soldato. Nessuno mi ha mai detto mischiati coi serpenti, così è sicuro che non finisci mai perdenti. E sappi che quelli che sanno perde sono più divertenti rispetto a quelli che alle merde fanno da dipendenti. Ve lo giuro siete stupendi, con la valigetta e la giacca in un futuro di morti viventi. Ti fai comprare con gli stipendi, ma se hai un cuore così non ci diventi. Mi vogliono combattere, ma non lo sanno fa. Io sento solo chiacchiere, come un anno fa. Questo è il mio carattere, e non lo cambio ormai. Mi dicono vattene, frate, ma quando mai?